Tra le righe. Letture, incontri e divagazioni con Adelaide Spallino. Salve, benvenuti a Tra le righe in questo pomeriggio di caldo a Foso. Oggi ho il piacere di presentare un'intervista con Carmelo Sardo, giornalista siciliano, volto del TG5, che con il libro Vento di Tramontana si presenta al pubblico in veste di scrittore. Un esordio che colpisce molto, un romanzo inquieto, come il vento che si abbatte sull'isola siciliana dove si trova il carcere in cui si svolge la storia, che ci conduce tra coloro che sono destinati a subire una pena senza fine mai e la giovanissima guardia carceraria con una vita davanti a sé una volta fuori di lì. Io adesso mi fermo qui e lascio che sia Carmelo Sardo a parlarvi del suo libro. Le interviste di Tra le righe. Allora, grazie per essere qui a presentare il suo libro Vento di Tramontana, un libro che io quando ho finito di leggere ho definito dentro di me inquieto, e non è solo per il titolo che è adattissimo. Questo libro è nato da alcuni appunti che lei ha preso durante l'anno di militare in cui ha fatto l'agente di custodia in un carcere. Vorrei sapere, sono passati 27 anni, no, dal momento della sua esperienza al ritrovamento di questi appunti, come stato poi trasformarli in un romanzo? In realtà io avevo questa storia dentro che si trascinava come una sorta di tormento per tutti questi lunghi anni, perché è chiaro che mi aveva molto segnato e talvolta nelle confidenze con gli amici ricordavo e ripercorrevo i drammi di alcuni detenuti e vedevo che quando raccontavo queste storie grande attenzione verso questi racconti. Avevo già cominciato da tempo in realtà a maturare l'idea di trasferire queste storie in un romanzo, quasi ad esorcizzare questo tormento interiore che avevo, ma non so, era come se io aspettassi qualche segnale, come se sentissi che dovesse succedere prima qualcosa prima di buttarmi a capofitto nella scrittura, e questo segnale è arrivato. Sono stati quei quattro quaderni che sono saltati fuori da un vecchio baule della mia vecchia casa di Agrigento mentre aiutavo papà a riordinare lo sgabuzzino, ed erano i quaderni che mi portavo dietro durante il servizio nel 1982, pensate, dove io annotavo tutte le emozioni di questa esperienza straordinaria di fare l'agente di custodia a 20 anni in un carcere di massima sicurezza, e appuntavo anche le confidenze che mi facevano alcuni di questi detenuti. A quel punto ho detto, ecco, questo forse era il segnale, mi metto al lavoro, e lavorando anche molto di fantasia, perché non è un percorso fedelissimo alla realtà dei fatti, c'è anche un po' la fantasia del romanziere, è venuta fuori quest'opera e cui è andato e sta andando ben al di là di ogni mia felice previsione. Bene, lei ha parlato proprio di questi ricordi che, cito testualmente, l'hanno inseguito come un tormento infinito, l'ha appena detto, però questa sua esperienza nel suo lavoro di cronista le ha fornito e le fornisce un punto di vista, diciamo così, privilegiato? Beh sì, ovvio che l'aver fatto il giornalista per tutto questo tempo è stato un grande vantaggio, perché poi la scrittura del romanzo è farcita ed è condizionata anche da questo mio lavoro che resta prevalente. Io quando mi chiedono se mi sento più scrittore o più giornalista rispondo che sono soltanto un giornalista che ha scritto un romanzo, ed è chiaro che lo ha scritto da una posizione di grande privilegio, che è quella di uno che ha a che fare comunque quotidianamente con fatti di cronaca, perché io sono un cronista di cronaca nera e giudiziaria, e va da sé che il cronista di nera e giudiziaria è stato detto magari a chi si occupa di bianco o di spettacolo nel tratteggiare poi storie drammatiche che hanno una maturazione, una gestazione in un carcere di massima sicurezza. Leggendo il suo libro c'è qualcosa che mi ha turbato, credo, non so se la stessa cosa è capitata ad altri lettori. Io mi sono ritrovata a provare dei sentimenti di empatica comprensione per Don Carmelo, no? Verso un personaggio che rappresenta il male, e nei personaggi, verso personaggi che rappresentano il male, di solito si indirizzano i sentimenti negativi, come se a loro nulla dovesse essere concesso. Eppure questa empatia nel comprendere che lui aveva comunque un desiderio del tutto naturale. Lei, scrivendo il libro, ha pensato di poter suscitare questa empatia nel lettore? Assolutamente sì, è un'osservazione correttissima alla quale rispondo molto volentieri, partendo da un presupposto di base che è questo: non dimentichiamo che il carcere dovrebbe deve rieducare chi ha sbagliato. E allora, se partiamo da questo presupposto, se un boss come Don Carmelo Sferlazza ha come obiettivo della sua vita, che ormai è bruciata perché uscirà dal carcere solo dentro a una bara, perché il fine appena mai è questo, se questo tenta un percorso di riscatto morale, addirittura tenta di redimere la propria esistenza bruciata attraverso questo grande progetto, che è quello di generare un erede maschio nella speranza che lui riscatti all'esterno la vita che lui non ha più e che ha bruciato via, perché è stata una vita da mafioso di generazione in generazione che si tramandava questa mafiosità. E allora in quel momento subentra una complicità di quieto vivere, che è questa, cioè il boss che tenta di riscattare attraverso un peccato veniale, che è quello di tentare di accoppiarsi con la propria moglie, non di avere un'avventura con chissà chi, ma tentare di accoppiarsi con la propria moglie per generare questo figlio. Non dimentichiamo che all'epoca non c'era la possibilità dell'inseminazione artificiale, cosa che fanno adesso recentemente alcuni boss come Raffaele Cutolo, che ha avuto non so quanti figli con l'inseminazione artificiale. E allora, se il percorso di redenzione punta a un obiettivo nobilissimo come quello che si era previsto il nostro Don Carmelo Sferlazza, perché allora individuare, interpretare in quel momento quel sentimento come appartenente a una persona che ha fatto solo male nella sua vita? Dobbiamo dare o no una chance anche a queste persone di riscatto? Ecco perché quella giovane guardia si rende complice di quel progetto, perché sa che è un progetto di grande riscatto morale, un progetto nobile, di sentimenti veri eppuri. Infatti nel romanzo la guardia prende le distanze da altri detenuti che hanno filosofie diametralmente opposte, comunque strampalate. Non può accettare la filosofia di quell'altro detenuto che dice: io ho ucciso mia moglie perché l'ho trovata a letto con l'amante e dovevo ucciderla. E sta lì la differenza sostanziale di questo romanzo e delle sue storie. Bellissima risposta, la ringrazio, perché era qualcosa veramente che, leggendo il libro, comunque un libro deve, secondo me, tra i vari sentimenti che deve suscitare, deve anche suscitare un po' di turbamento, un qualcosa che faccia essere il lettore parte attiva, non subire una lettura e basta. Io volevo chiedere una cosa un po' tecnica, diciamo, perché lei, questo è il suo primo romanzo, no? Quindi è passato da cronista a romanziere, e vorrei sapere com'è stato passare dal linguaggio concepito per l'informazione a quello invece di più ampio respiro della narrazione, che offre più spunti. Si è trovato a suo agio? Semplice, io divoro romanzi, ho sempre letto da quando ho cominciato a leggere e intendere a volere, e mi ha molto aiutato la mia grande passione per i romanzieri sudamericani come Jorge Amado, come Solina, come Alvaro Mutis. Se voi provate a leggere attentamente questo genere di romanzieri, vedrete come descrivono i paesaggi, come descrivono perfino una camminata, come descrivono perfino un sogno o una chiacchierata, con una scrittura semplice ma che conquista, che cattura. Sono stato molto condizionato, per fortuna, dalla lettura spasmodica di questi romanzi fino a divorarli. Condivido la sua passione per gli autori sudamericani, perché sono una fanatica di questi autori, quindi mi trovo assolutamente concordante. Ecco. Questi ricordi, ora che ha finito il libro, che il libro sta facendo il suo viaggio, si sono un po' calmati, la tormentano ancora, oppure il vento di tramontana si è placato? Guardi, per singolare coincidenza, quando mi viene chiesto: ma è mai più tornato a Favignana? Sono mai più ritornato a Favignana, eppure ogni anno io mettevo in conto di tornare in quell'isola, ma succedeva sempre qualcosa all'ultimo momento che mi impediva di farlo. Ecco, adesso ho capito cos'era, dovevo scrivere questo romanzo ed esorcizzare, come mi piace ripetere, quei tormenti, perché adesso che sono finiti dentro un romanzo e che posso condividerli con migliaia di lettori, non solo mi hanno, come dire, appagato anche questo travaglio interiore, ma addirittura hanno, come dire, esorcizzato anche l'impedimento che succedeva ogni volta che tornava a Favignana, tanto che io, incrociamo le dita, il 25 luglio, fra le altre tappe, presenterò il romanzo proprio a Favignana, e per gentile concessione del DAP, del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, sono stato autorizzato a fare una visita all'interno del carcere di Favignana, che è ancora lì, è ancora lo stesso, con le sue celle umide e fradice. Potrò ritornare dentro le viscere di quel vecchio castello borbonico. Bene, Bellissimo. Quindi la scrittura come liberazione, proprio una liberazione da. Grazie, la nostra intervista finisce qui, è stata bellissima ed esaltante. La ringrazio tantissimo. Le interviste di Tra le righe. Bene, non credo ci sia da aggiungere nient'altro oltre a quello che ha detto Carmelo Sardo. Vi ricordo ancora Vento di Tramontana, edito da Mondadori. E nel ringraziare lui per la sua disponibilità, io ringrazio anche tutti gli altri autori che fin qui ci hanno permesso di andare avanti con Tra le righe. L'appuntamento è per la prossima volta, a presto. Tra le righe e Adelaide Spallino vi danno appuntamento alla prossima puntata.